Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e buona giornata a tutti. Altro consumo contro la RAI, la Casa del Consumatore ed altre associazioni contro il caro traghetti da e per la Sardegna, queste sono le più recenti, ma negli ultimi mesi sono state avviate diverse class action, cioè diverse azioni risarcitorie collettive per tutelare gruppi di consumatori nelle situazioni più disparate. Oggi ne parliamo perché? Perché per quello che riguarda l'azione contro la RAI, proprio in questi minuti si tiene la prima udienza al Tribunale di Roma. Allora vi chiederete perché altro consumo dovrebbe occuparsi delle vicende RAI, perché l'azienda di Stato avrebbe violato un obbligo contrattuale cancellando lo scorso anno dal suo palinsesto, durante la campagna elettorale per le amministrative, i principali programmi di informazione ed approfondimento politico. Per questo altro consumo chiede un risarcimento di 500 euro per ogni abbonato RAI che sottoscrive l'azione collettiva. Più nota, perché ha trovato ampio risalto sui giornali per tante motivazioni, l'azione avvia dalla Casa del Consumatore contro le compagnie di navigazione dopo l'aumento tra il 90 e il 100% dei prezzi dei biglietti da e per la Sardegna, una situazione che era già sotto i riflettori da parte dell'antitrust, l'autorità garante del mercato, perché le compagnie sono sospettate di aver costituito un cartello. Due situazioni differenti che ci danno modo però di rispiegare come funziona l'azione collettiva all'italiana, molto differente dal modello americano che noi conosciamo perché è più volte finito al cinema con, per esempio, ricorderete il film su Erin Brockovich e tanti altri casi portati sempre sullo grande schermo, basati anche sulle storie raccontate da John Grisham. L'azione collettiva all'italiana è in vigore dal gennaio dello scorso anno. Oggi cercheremo di capire quali sono le iniziative già state promosse, che margini di successo hanno, come si possono coinvolgere i consumatori anche nelle iniziative già in corso, perché chiaramente, tra l'altro, siccome si basano tutte fondamentalmente, poi ve lo spiegheremo, anche sulla raccolta massiccia delle adesioni, per aver più margini di successo è chiaro che il coinvolgimento dei diretti interessati è fondamentale. Sarà con noi per tutta la durata della trasmissione l'avvocato Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione Casa del Consumatore. Avvocato, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi. Sempre alle prese con le rogne legate al mondo del turismo. Poi stamattina l'abbiamo raggiunto nell'avvocato Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, che ci ha spiegato i presupposti dell'azione contro la TV pubblica, perché non può essere in diretta con il Martinello, perché, come vi dicevo, in questi minuti è proprio in tribunale a Roma. Allora, 800240024 il numero verde che vi dà l'opportunità, se vorrete, di interagire con noi questa mattina, oppure in alternativa potete scriverci alle 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. E stamattina abbiamo appreso che l'attivissimo Codacons ha già pronto allo studio un'eventuale azione collettiva dopo l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla questione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e i danni molto preoccupanti provocati alla salute. E anche questa è una notizia che stamattina appare con ampio risalto su tutti i giornali, che parla appunto di ciò che possono provocare i cellulari usati troppo frequentemente, gravi rischi legati alla possibile insorgenza di tumori, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi questa Organizzazione dei Consumatori italiana ha già detto di essere pronta ad orchestrare, ad organizzare una class action appunto su questo. Al momento questa è solamente una notizia, le altre di cui parleremo invece sono già belle che avviate di iniziative e quindi le vorremmo conoscere più nel dettaglio. Allora, vi ho dato i numeri per intervenire rapidamente, siccome abbiamo anche dei contributi registrati da mandare in onda prima di cominciare anche la nostra chiacchierata con l'avvocato Ferrari. La borsa ve la racconto rapidamente, anche perché i termini più importanti della giornata di oggi li avete già sentiti nel giornale radio. Una giornata tranquilla sui mercati finanziari, leggerissimi cali su tutte le piazze, perché dopo i rialzi di ieri, oggi la borsa presumibilmente si prende una pausa e consolida i guadagni appunto messi a segno ieri. Meno 0,12% per Piazza Affari, sul FTSE MIB meno 5,5% per Banca Monte dei Paschi. Il gruppo sta collocando, non tanto il gruppo quanto la Fondazione Monte dei Paschi sta collocando sul mercato, e come intermediario c'è Goldman Sachs, il suo pacchetto del 6,7% detenuto appunto nel capitale dell'istituto, 450 milioni di azioni privilegiate, e con questa iniziativa la Fondazione Monte dei Paschi vuole monetizzare parte della propria quota per finanziare la sottoscrizione dell'imminente aumento di capitale che Monte dei Paschi appunto avvierà probabilmente nelle prossime settimane. C'è un calo anche di Banco Popolare, meno 1,82. STM trascinata a ribasso da Nokia, il titolo dei chip italiano perde l'1,80%. Questo gruppo è il principale fornitore di chip per Nokia, e dopo il profit warning, l'allarme utili lanciato ieri da Nokia, il titolo ieri ad Helsinki ha perso il 17,5%, oggi perde quasi 8 punti ancora una volta, di conseguenza un po' tutto il settore tecnologico è sotto pressione a Piazza Affari. Anche Intesa perde 1,5%, Popolare di Milano meno 1,46, UbiBanca meno 1,37, i migliori titoli TOTS più 2, Enel Green Power più 1,44, Diasorin più 1,25, rialzo di 1 punto per Saipem, Buzzi Unicem più 0,7 per Pirelli. Per la borsa è tutto, ritorniamo oggi su un tema che abbiamo abbandonato per diversi mesi, ma oggi ci ritorniamo perché ci sono due iniziative in corso, due sono quelle più recenti, ma ce ne sono tante in corso, parliamo della class action all'italiana. La RAI non garantisce un'informazione obiettiva e imparziale? I traghetti sono troppo cari perché le compagnie di navigazione fanno cartello? In molti lo pensano ed ora possono affilare le armi e aderire alle class action lanciate da diverse associazioni dei consumatori. In particolare, per quanto riguarda la TV pubblica, l'azione collettiva promossa da Altro Consumo si basa sulla mancanza di un'informazione obiettiva, imparziale ed equilibrata e imposta dalla disciplina sulla par condicio agli utenti che hanno pagato il canone. Gli abbonati RAI, dunque, avrebbero subito la cancellazione del proprio diritto, costituzionalmente garantito, a un'informazione libera e plurale. La prima udienza in agenda oggi punta dunque ad ottenere un risarcimento di 500 euro per chiunque voglia farne richiesta, vale a dire per il momento oltre 30.000 cittadini. Televisione, ma non solo. Con l'avvicinarsi delle vacanze estive, in molti si sono accorti, acquistando il biglietto di un traghetto, dell'aumento dei prezzi rispetto all'anno scorso. La stessa Antitrust è scesa in campo per indagare sul sospetto cartello a danno dei viaggiatori sulle tratte da e per la Sardegna. E proprio da questo faro acceso dall'autorità sono partite le iniziative a tutela dei consumatori. L'importante per chi volesse aderire è conservare prenotazione e biglietto acquistato. 800 24 0024 numero verde per le vostre domande. Vedo già alcuni messaggi interessanti al 349 238 6666, messaggi a cui daremo voce dopo. Intanto ne abbiamo già anticipato i contenuti nella nostra scheda, ma vorrei entrare ancora di più nel dettaglio sulla class action di Altro Consumo contro la RAI. Oggi presso il Tribunale di Roma si tiene la prima udienza relativa a questa azione collettiva. Noi stamattina, appena atterrato in aeroporto a Ciampino, abbiamo raggiunto il presidente di Altro Consumo, Paolo Martinelli. Gli abbiamo chiesto innanzitutto quali ragioni hanno portato l'associazione ad intentare questa causa e soprattutto gli abbiamo chiesto di ribadirci a quale riconoscimento puntano di ottenere dal Tribunale di Roma. Sentiamolo. L'azione è nata dagli episodi verificatisi nel corso del 2010, quando RAI, a nostro parere, ha violato il contratto di servizio. Sapete che in Italia vige un sistema in base al quale RAI è la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico. C'è un contratto stipulato dal governo con la RAI che impone a RAI una serie di obblighi informativi, palinsesti composti di vari contenuti, ivi compresi fra gli altri i famosi talk show di informazione politica e di dibattito sull'attualità. Accadde nel 2010 sotto la campagna elettorale per le amministrative dello scorso anno che RAI soppresse in toto questi talk show, e questo è il primo aspetto su cui riteniamo che siano stati violati i diritti degli utenti ad una qualità, diciamo, del servizio, ad una completezza del servizio. Questo a prescindere ovviamente da qualunque giudizio sul contenuto dei talk show, sulla loro qualità interna intrinseca, ma insomma erano previsti dagli palinsesti e non potevano essere soppressi tout court proprio sotto campagna elettorale. Il secondo profilo riguarda la violazione della par condicio. Rai è stata condannata dalla GCOM per il mancato rispetto in vari spazi informativi, in particolare nel TG1, questo già nel 2010, per il mancato rispetto della par condicio tra i vari soggetti, attori politici italiani, e questo è un altro punto su cui c'è già una delibera della GCOM, che è la base giuridica sulla quale chiediamo che venga accertata la violazione anche di un diritto dei singoli utenti. Questi sono i due principali, ce ne sono altri minori, ma i due principali motivi di questa azione sono questi. Naturalmente l'aspetto importante e anche nuovo di questa azione è quello di chiedere al giudice che accerti che quando ci sono questi tipi di violazione viene violato non solo il contratto di servizio di Rai nei confronti dello Stato, ma anche precisi diritti degli utenti che sono i destinatari di quegli obblighi. E se questo è vero, ne consegue l'obbligo di risarcire il danno. Il danno noi lo quantifichiamo in questa fase, in questa causa, in misura equitativa pari a 500 euro a testa. Sarà però poi il giudice a decidere se questa è una misura congrua, se è poco, se è tanto. Questo direi che è l'aspetto meno problematico della questione. Risarcimento di 500 euro, ci diceva, come risarcimento del danno subito dagli utenti che, pur pagando il canone, non hanno potuto fruire di questa informazione obiettiva, imparziale ed equilibrata. Ci tengo a dire che qui non è che la nostra domanda si basi sul fatto che gli utenti pagano il canone. Ovviamente il canone è importante perché dimostra che c'è un rapporto contrattuale diretto tra Rai e utenti, ma in altri casi molto simili a questo, per esempio la responsabilità di un istituto scolastico quando causa danni agli utenti del servizio, anche il fatto che il servizio sia gratuito non è o che ci sia una tassa, come Rai dice, no? Essere il canone non il pagamento di un servizio ma una tassa. Questo secondo noi è rilevante, perché quello che conta è che ci sia un rapporto comunque di natura contrattuale che prevede obblighi e diritti. E allora, avete sentito, questa è la prima parte dell'intervista a Paolo Martinello, poi sentiremo la seconda. Avvocato Ferrari, tra l'altro tra un minuto e mezzo devo già andare in pausa, ci spiega invece in questo minuto e mezzo quali sono i presupposti che hanno fatto partire la vostra azione collettiva contro le principali, appunto, compagnie uniche praticamente che operano da e per la Sardegna. Appunto, c'è stata questa notizia che è stata riportata per tante settimane sui giornali sugli aumenti dei prezzi del 90-100%, le motivazioni che poi le compagnie hanno adottato sono state tante, tra cui anche l'aumento del costo dei carburanti e tante cose, però voi volete vederci chiaro, supportati anche dall'azione dell'antitrust che ha detto qua c'è stato un cartello. Intanto voi come vi state muovendo? Dunque, intanto noi stiamo raccogliendo le adesioni a questa azione di cui la nostra associazione si è fatta promotrice, perché riteniamo che sia in Italia il primo caso di un cartello sospetto per ora da parte dell'antitrust, ma già con segnali evidenti accertati dall'antitrust che sembrano confermare l'esistenza di un accordo tra queste compagnie di traghetti. Dicevo, il primo caso di un cartello che ovviamente danneggia i consumatori, in cui è abbastanza facile dimostrare il danno e avere la prova di aver avuto il danno pecuniario. Faccio un esempio: un altro cartello che ormai è definitivamente accertato è quello dei pastai, che c'è stato negli anni passati un aumento concordato del prezzo della pasta da parte dei principali produttori italiani. Ecco, in questo caso, che ogni singolo riesca a dimostrare quanti chili di pasta ha acquistato e avere gli scontrini è praticamente impossibile. Quindi abbiamo un danno di cui ci sono migliaia di danneggiati e nessuno che può chiedere concretamente risarcimento. Qua basta avere il biglietto. E quindi è il caso, diciamo, su cui sperimentare veramente l'efficacia dell'azione collettiva per sanzionare, al di là delle sanzioni amministrative che deriveranno dall'autorità garante della concorrenza laddove ravviserà definitivamente questo cartello, ma al di là delle sanzioni amministrative il risarcimento del danno da parte di chi si trova a subire aumenti ingiustificati. Ecco, avvocato, io adesso devo già andare in pausa, solamente una domanda mi chiedo: state facendo la raccolta delle adesioni, quindi l'azione legale è già stata depositata presso il tribunale, credo che sia quello di Genova quello interessato, no? Noi no, non l'abbiamo ancora depositata, perché vogliamo radicarla a Genova e ci siamo, abbiamo richiesto di intervenire davanti all'antitrust per essere aggiornati sull'andamento dell'istruttoria e su tutta la documentazione che viene acquisita nel corso dell'istruttoria, e per ora sinceramente la stiamo ancora ce la stiamo preparando. Ecco. Benissimo. No, per capire anche qual è l'iter dell'istruttoria di una class action, perché noi oggi interessa sapere soprattutto questo, a prescindere dai due casi specifici, ci interessa capire effettivamente come si fanno, se hanno successo, quali sono anche quelle che non sono state accolte dai tribunali, perché ovviamente ci sono stati molti casi anche in questo senso. Oggi Salvadanaio ritorna sulla class action, sull'azione di classe, questa novità che è stata introdotta nel nostro ordinamento legislativo nel gennaio dello scorso anno, dopo una lunga serie di rinvii, peraltro, perché erano almeno 3 anni che c'è una discussione molto accesa su questo, perché naturalmente poi azioni di questo tipo, lo spiegheremo, danneggiano ovviamente le aziende che devono spendere tanti soldi per difendersi. Non sempre le azioni collettive partono anche con una sostanziale ragionevolezza, commenteremo anche questo. Poi in ogni caso l'azione collettiva è stata introdotta nel nostro ordinamento con l'articolo 140 bis del codice del consumo e è uno strumento di tutela collettiva che permette di attivare un unico processo per ottenere il risarcimento del danno subito da un gruppo di cittadini danneggiati dal medesimo fatto realizzato da un'azienda scorretta che ha fatto delle pratiche commerciali scorrette. In questo caso oggi abbiamo parlato dell'azione intentata dall'associazione Altro Consumo contro la RAI, prima udienza questa mattina al Tribunale di Roma, e dall'azione intentata dall'associazione Casa del Consumatore contro le compagnie di navigazione, Mobis, Nave, Grandi Navi Veloci e Sardinia Ferris, appunto per gli enormi aumenti dei prezzi dei biglietti da e per la Sardegna. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, e poi risentiremo la seconda parte dell'intervista al presidente di Altro Consumo, Paolo Martinello, che ci spiega, anche se la cifra l'abbiamo già data ma entra in qualche dettaglio, quanti utenti e consumatori hanno già aderito all'azione di Altro Consumo. E abbiamo con noi anche l'avvocato Ferrari, presidente Giovanni Ferrari, presidente della Casa del Consumatore. E sul caso che state portando avanti voi, avvocato Ferrari, c'è una domanda di un ascoltatore della mia Ancona. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, salve. Ci dica. Allora, io ho prenotato esattamente a fine marzo un viaggio di andata e ritorno per la Sardegna, da Civitavecchia. Sì. E ho prenotato tramite la Mobi. Allora, normalmente se si prenotava prima c'erano delle offerte. In questo caso invece ho speso 500 euro andata e ritorno per 2 persone con la macchina, mentre qualche anno fa avevo speso molto meno, 160-170. Ma a parte quello, dopo 2 giorni il biglietto della Mobi mi è stato modificato in SNAV. Sì. Ho chiamato dicendo: scusi, io ho prenotato la Mobi e non ho capito come mai me l'ha modificato. Mi ha detto: c'è un accordo e quindi facciamo una nave solo. Sì. Ecco, questo dimostra sostanzialmente che c'è una sorta di accordo e cartello fra le varie società. Le ha cambiato anche di nuovo il prezzo nel frattempo, Alessandro? No, il prezzo lo stesso, hanno solo modificato il vettore. Alessandro, sì, vediamo se anche questo è un altro presupposto per poter aderire all'azione collettiva. Certo che 500 euro per 2 persone per fare un braccio di mare, per carità. Avvocato Ferrari, cosa suggerisce ad Alessandro? Questo, voglio dire, magari non è esattamente il motivo per il quale aderire all'azione collettiva, non lo so. Ma intanto se ha piacere, avremmo piacere di averlo tra i nostri sostenitori dell'azione. Tra l'altro non chiediamo nessun costo per entrare nel novero delle persone che partecipano a questa azione, e senz'altro lui è uno degli interessati, perché proprio il periodo sotto osservazione è da giugno a settembre di quest'anno. Ah, ecco, quindi c'è un periodo di osservazione all'interno, esatto, del quale sarebbe maturato questa moltiplicazione dei prezzi? Assolutamente, perché poi è una materia abbastanza difficile, perché i traghetti, così come ce ne accorgiamo anche quando con gli aerei, non c'è un vero e proprio prezzo di listino, no? È un prezzo che varia da un momento all'altro, sulla base dell'offerta, sulla base delle richieste, sulla base che sia bassa o alta stagione, eccetera. Per cui anche l'antitrust si è trovato un pochettino in difficoltà nel paragonare, diciamo, i prezzi 2010 con quelli 2011, però ha fatto questo lavoro e ha visto che mediamente c'erano degli aumenti pari al raddoppio. Ma poi la cosa, diciamo, che è molto, diciamo, che secondo me dà l'indice del fatto che ci sia un accordo, che mentre in passato c'erano prezzi molto variabili da compagnia a compagnia, adesso si sono tutte appiattite sugli stessi prezzi e tutte sono molto alte, per cui diciamo che il sospetto che ci sia un cartello è forte e comprovato appunto da queste circostanze. Poi il fatto che una singola compagnia decida di aumentare i costi di per sé potrebbe benissimo farlo. Sì, però certo, poi il mercato che stabilisce diversamente, ovviamente. In un contesto concorrenziale cosa succede? Che quella compagnia perderà i clienti perché nessuno va più da lei perché è troppo cara. Però se tutte fanno, ovviamente, tutte d'accordo, non abbiamo più scelta. Certo. Insomma. Allora, io tra l'altro adesso vorrei essere anche prudente nel sostenere la questione dell'accordo di cartello, perché non abbiamo le compagnie con noi, perché il nostro interesse era stamattina spiegare le iniziative di class action in corso e spiegare agli ascoltatori che si ritengono, che sono interessati appunto a queste iniziative, come poter aderire a queste. Quindi questa era solamente una raccomandazione che ho fatto all'avvocato Ferrari, ma so che non ne ho bisogno perché comunque utilizza sempre un linguaggio estremamente prudente. Detto questo, ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo. Gaetano da Lucca ci chiede: vorrei sapere perché non sono state fatte azioni collettive contro il Ministero della Pubblica Istruzione a favore dei precari. Poi magari, se riusciremo, apriremo anche la parentesi sulle azioni collettive contro la PA, contro la pubblica amministrazione. Qualcuno che guarda all'azione collettiva contro la RAI come ad un'iniziativa allucinante: andrebbe fatta abolire quella boiata, dice Mario della Par Condicio. Per tutto il resto ha ragione anche su questo Mario, c'è il telecomando, però di fatto il servizio pubblico un certo equilibrio nella formazione politica dovrebbe garantirla. Poi in ogni caso lo strumento dell'azione collettiva c'è, cioè adesso vedremo se il Tribunale di Roma darà ragione o meno ad altro consumo e ai presupposti con cui questa associazione ha intentato l'azione collettiva. Allora, Paolo Martinello, seconda parte dell'intervista che gli abbiamo fatto questa mattina, ci spiega, ci racconta, ci fa un po' il punto della situazione sugli utenti e sugli aderenti anche all'associazione dei consumatori che hanno aderito a loro volta all'iniziativa contro la RAI. Stiamo raccogliendo delle preadesioni, l'adesione formale alla class action dovrà essere fatta quando il giudice la dichiarerà ammissibile, cosa che speriamo avvenga nel giro di pochi giorni o poche settimane, però già dallo scorso anno abbiamo iniziato una raccolta di adesioni, diciamo, informali, proprio per avere intanto il polso della situazione e soprattutto per cominciare a creare la classe, fra virgolette, degli utenti che poi aderiranno formalmente all'azione. Sul sito di Altro Consumo, www.altroconsumo.it, abbiamo ormai raccolto più di 30.000 adesioni di persone che si sono iscritte a questa iniziativa e che naturalmente verranno poi tenute informate, e quando la class action verrà dichiarata ammissibile daremo le ulteriori istruzioni per l'invio della documentazione necessaria, dei documenti, dei moduli. Quindi, Presidente Martinello, non è oggi l'udienza necessaria per dichiarare ammissibile l'azione risarcitoria? Oggi cosa succede? Oggi è l'udienza, è la prima udienza nella quale il giudice comincerà a discutere dell'ammissibilità, discuteremo dell'ammissibilità e la decisione potrebbe avvenire da oggi in poi, diciamo, quindi questo è impossibile prevederlo con precisione, però diciamo che da oggi in poi qualunque giorno è buono per avere la decisione del giudice sull'ammissibilità, e da quel momento ci saranno i famosi 120 giorni che prevede la legge per formalizzare la raccolta delle adesioni di tutti gli abbonati RAI del 2010 che intendano aderire all'iniziativa. Allora, un attimo, mi soffermo ancora e chiedo scusa all'avvocato Ferrari sul caso RAI, perché c'è Fabio da Alessandria che vorrebbe chiederci delle delucidazioni. Fabio, peraltro, credo che forse qualche risposta alla sua domanda l'ha data adesso Paolo Martinello, se ha avuto modo di sentire questa parte dell'intervista. Buongiorno Fabio. Buongiorno dottoressa. Sì, in effetti stavo ascoltando la trasmissione e le risposte, avete già dato tutte le risposte ai miei quesiti. Il tema era come si fa praticamente ad aderire a questa azione collettiva contro la RAI, che procedura seguire. Le posso dire che intanto si può chiamare Paolo Martinello, ha citato il sito dell'associazione, e c'è anche un numero verde che io darei, 800 131 889, quindi lì può prendere tutte le informazioni. In ogni caso adesso siamo ancora alla fase della raccolta delle preadesioni. Avvocato Ferrari, ed è la stessa cosa che state facendo voi, no, per l'azione collettiva contro le compagnie di navigazione. No, anche per spiegare la procedura. Quindi c'è questa azione intanto conoscitiva, fate conoscere intanto ai consumatori che tipo di iniziativa intendete portare avanti, e c'è una raccolta di preadesioni anche per capire se avete i numeri poi per proseguire. Esattamente, perché ci sono, diciamo, due casi che si possono presentare. Se cioè chi propone un'azione deve anche dimostrare che è rappresentativo rispetto a una determinata classe, cioè non è una sua idea balzana una mattina, ma rappresenta effettivamente un problema sentito. Quindi questa raccolta di preadesioni che ha fatto Altro Consumo e che stiamo facendo anche noi su questo sospetto di cartello sui traghetti serve proprio a dare la misura di quanto un problema è sentito e di quanta gente, di quante persone sono interessate a coltivare questa azione. Dopodiché viene proposta l'azione, e diciamo che anche in questi giorni per Altro Consumo, a maggior ragione per noi, si può continuare a preaderire, diciamo. Poi si apre una fase in cui formalmente il giudice concede un termine entro il quale chi è interessato deve aderire, facendo pervenire presso la cancelleria, diciamo, la propria adesione, con minori formalità rispetto a quelle richieste normalmente per l'intervento in un giudizio ordinario. Avvocato Ferrari, noi lo scorso anno ci siamo conosciuti perché l'avevamo invitata ad affrontare insieme il caso di Viaggi del Ventagli, il fallimento di questo tour operator. Se non ricordo male, forse l'avevo in qualche modo coinvolta anche nel caso di un altro tour operator che consentiva delle belle vacanze a Zanzibar, Weekend Tour, e per il quale appunto lo stesso era stata lanciata un'azione collettiva da parte di un'altra organizzazione dei consumatori, l'Unione Nazionale Consumatori. Tutto questo per arrivare a chiederle: voi, da quando questo strumento legislativo è disponibile nel nostro ordinamento, quante azioni avete intentato e quante ve ne sono state anche rigettate da parte di qualche tribunale italiano? Perché non tutte vengono portate avanti con successo, questo va riconosciuto. Assolutamente, sì. Dunque, questa è la nostra prima azione. Ah, ecco. Sì, è la nostra prima azione perché abbiamo fatto delle azioni che potrei definire collettive, cioè che hanno radunato tante persone ma che non rientravano nello schema abbastanza rigido dell'azione di classe e che permette soltanto determinati tipi di azioni con vari paletti. Quindi casi tipo quello Ventaglio, in cui noi abbiamo tutelato circa 600-700 persone, lo abbiamo fatto come un'iniziativa collettiva ma non un'azione di classe. La prima vera azione di classe che proponiamo è proprio questa, e diciamo l'ostacolo che deve superare oggi Altro Consumo e tra qualche giorno anche noi è quello dell'ammissibilità. Sì. Cioè il giudice la prima valutazione che fa è: ma è ammissibile, ha un, diciamo, appare fondata questa azione o è evidentemente fatta soltanto per disturbare un'azienda? Infatti oggi non lo sapremo probabilmente oggi, ma mi interesserà molto capire quella di Altro Consumo come andrà a finire effettivamente, perché se anche l'avvocato Martinello spiegava molto bene che c'è proprio il presupposto della violazione contrattuale nel rapporto fra l'abbonato e l'azienda, c'è anche tutta la tematica dell'informazione politica che è alla base anche di questa iniziativa, e quindi c'è un presupposto anche abbastanza originale. Allora, le azioni di classe, le azioni risarcitorie collettive, come si istruiscono? Noi siamo partiti da due casi concreti dei quali si parla in questi giorni sui giornali. Francesco da Roma, un'altra domanda per l'avvocato Giovanni Ferrari. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo sapere, ma come, a chi viene l'idea di istruire una class action? Da chi parte la prima proposta o la prima idea? Perché, cioè dire, io domani voglio proporre, giusto o non giusta che sia, una determinata class action. Poi, questa può essere un'idea sbagliata, un'idea errata. Poi, qualsiasi associazione, a chi lo dico, come l'associazione si comporta successivamente, dove raccoglie e come raccogliere firme, vale a dire dove diffonde la sua proposta, che è stata di un individuo o di più, certo, individui. Che, se no uno sembra che un cluster di persone decidano le class action, così sto dicendolo ovviamente senza prove, per opportunità o per necessità, fra loro poi ci partecipano perché nessuno sa niente. Un altro cartello tra associazioni. Francesco, la ringrazio, domanda assolutamente pertinente, perché qua ci si chiede ovviamente chi è la figura prima che parte con un'iniziativa di questo genere. Noi stiamo parlando adesso delle associazioni dei consumatori, che hanno tanti aderenti, ognuna ovviamente ha i suoi e quindi hanno chiaramente una potenza di fuoco sulla quale poter far conto, Francesco. Però avvocato Ferrari, lui dice: io in qualità di singolo cittadino potrei, se mi ritengo leso da un'azienda per qualsiasi situazione, avviare un'azione collettiva, parto con una raccolta di firme, posso farlo, dove le porto, a chi mi rivolgo? Lo può fare. L'articolo 140 bis che veniva proprio citato all'inizio di questa trasmissione consente la proposizione dell'azione anche ai singoli, in questo siamo sul modello statunitense. Quindi chiunque singolo ritenga che sia violato un diritto di più persone, in cui in tanti si riconoscono perché c'è una serialità nella violazione, non so, una banca che si comporti male verso tutti i clienti, chi rileva questa cosa può anche da solo proporre l'azione, quindi non è un'esclusiva delle associazioni di consumatori. Però di sicuro hanno, come dire, gli strumenti, la preparazione giuridica anche per poter fare. È un po' quello che dicevo prima, cioè chi propone l'azione deve poi essere in grado di dimostrare al giudice di poter curare adeguatamente l'interesse della classe, cioè veramente diffondere la notizia, e qua arriviamo all'altro punto che veniva esattamente sollevato. Lo racconto a Francesco perché io gli vorrei anche spiegare le motivazioni per cui abbiamo, chiaramente io sono una giornalista, ho dei rapporti quotidiani con l'associazione dei consumatori, per cui è inevitabile aver saputo per esempio dell'iniziativa di Altro Consumo, ma per la verità non è che mi abbiano avvisato loro. Io ho trovato un riquadrino pubblicitario su un quotidiano e da lì mi è venuta l'idea di occuparmi di questo caso, avvocato Ferrari, perché anche voi dovete far sapere che queste iniziative ci sono, quindi fate pubblicità. Se la gente non sa, noi cerchiamo in tutti i modi, e la trasmissione di oggi è la riprova che tutto sommato stiamo cercando, stiamo facendolo abbastanza bene, di far conoscere questa iniziativa o altre che si facessero. E questa è una fase, diciamo, lasciata come possiamo dire, una libera interpretazione di chi propone l'azione, cioè cerca in tutti i modi di farla conoscere. Quando poi si arriva davanti al giudice, sarà lui a stabilire le modalità con le quali deve essere resa nota l'azione di classe, che so io, la pubblicazione su un giornale a diffusione nazionale, la pubblicazione in gazzetta ufficiale, quale che sia la forma ritenuta dal giudice. Benissimo, allora dunque stavo cercando di capire se c'erano altre, c'era questa bellissima riflessione di un ascoltatore che ci racconta che le Poste Italiane hanno raddoppiato il prezzo minimo di spedizione di una cartolina o lettera leggera dall'Italia all'Australia, da 1 euro a 2 euro. Questo aumento è molto recente, non dovrebbe passare inosservato, e qua avvocato Ferrari, che facciamo, l'azione di classe contro Poste Italiane, voglia dimostrare un cartello di un'azienda unica che si occupa di questo settore? In ipotesi sarebbe, diciamo, allora da parte loro un abuso di posizione dominante, però bisogna vederlo. Certo, diciamo che ogni aumento, soprattutto da chi si trova ad agire come monopolista, deve essere giustificato. Poi Poste Italiane ha come azionista unico lo Stato, per cui voglio dire deve agire nella legalità, ovviamente, nel rispetto della legge e del contratto e dei rapporti con lo Stato per quanto riguarda la gestione del servizio universale. Però vero è che appunto bisogna vedere in concreto. Ringrazio di questa segnalazione e verificheremo. Benissimo, allora intanto un'ultima domanda che ho fatto all'avvocato Paolo Martinello, e ce l'ascoltiamo, è un suo commento su questo anno e qualche mese di operatività dello strumento azione collettiva in Italia. Lui è anche un legale, esattamente come l'avvocato Ferrari. Tra l'altro, altra domanda di un altro ascoltatore che ci chiede perché i presidenti di queste associazioni sono sempre solo degli avvocati, perché credo che abbiano anche la preparazione per poterlo fare molto seriamente, quindi speriamo di averlo accontentato, almeno questa è chiaramente la mia interpretazione. Però l'avvocato Martinello, appunto, un giudizio personale sul funzionamento della class action all'italiana, sentiamolo. Sono stato state introdotte alcune azioni, non molte per il momento, ma questo era ampiamente prevedibile perché, come ricordiamo, la class action introdotta in Italia nel 2009 ha impedito l'uso di questo strumento processuale per tutti i casi pregressi, quindi in pratica gli illeciti per i quali è possibile introdurre una class action sono solo quelli avvenuti dal 2010 in poi sostanzialmente, quindi ovviamente diradati quantitativamente. Dal punto di vista processuale i primi casi sono un po' controversi, direi che i giudici si sono abbastanza focalizzati su questioni molto formali, per esempio la delega che il consumatore deve dare all'associazione per poter consentire all'associazione di agire direttamente, la questione della titolarità del diritto in capo al singolo consumatore, questioni diciamo piuttosto tecniche che forse erano anche prevedibili, però diciamo che ci auguriamo che venga anche compreso, ovviamente la legge va rispettata, i requisiti ci devono essere, le condizioni devono essere soddisfatte, però è importante che anche i giudici aiutino in qualche modo questo strumento e lo liberino un po' da interpretazioni un po' troppo burocratiche, se posso chiamarle così. Avvocato Ferrari, ho un minuto di tempo prima della chiusura, allora anche Martinello riconosceva i requisiti molto stringenti che sono necessari da rispettare per poter avviare l'azione di classe e per poter fare in modo che un giudice di qualsiasi tribunale riconosca l'ammissibilità di queste azioni. Allora mi chiedo perché vi avventurate in queste azioni se avete già lo strumento dell'azione collettiva che già esisteva, ci può in 10 secondi, in 20, 30 anzi gliene concedo, spiegare le differenze fra i due strumenti? D'accordo, beh, noi abbiamo uno strumento che c'è da tempo che è quello di un'inibitoria collettiva, cioè praticamente ottenere da parte del giudice l'ordine di modificare delle condizioni contrattuali o un comportamento tenuto da un'azienda nei confronti dei clienti, e questo è uno strumento che è stato utilizzato, però ha anche lui, ahimè, diciamo dei limiti. L'azione collettiva, diciamo che noi stiamo provando ad utilizzarla perché è lo strumento che abbiamo cercato da tempo, per cui abbiamo lottato, anche se le associazioni poi avevano espresso tutte un parere negativo su questo testo che alla fine è stato partorito dopo tante discussioni, sì. Però è lo strumento che abbiamo oggi. Da un lato diciamo che anche avere delle pronunce negative, spero che questo non sia il caso, non è quello che andiamo a cercare, però dimostra almeno politicamente allora a quel punto che lo strumento non funziona. E che va rimodificato di nuovo, certo. Avvocato Ferrari, grazie per essere stato con noi. Ricordo che è istituito per l'azione di classe contro le compagnie di navigazione da per la Sardegna un comitato tutela viaggiatori. Per tutte le informazioni potete andare a verificare sul sito della Casa del Consumatore. Intanto grazie per essere stato con noi, così come ringrazio Gaia Romani come sempre per la collaborazione in redazione, stamattina Fabio Cantadori in assistenza tecnica, e noi con Salva Danaio ritorniamo anche domani perché la borsa è aperta, pertanto saremo qua nonostante la festa e il ponte regolarmente in diretta. Buona giornata a tutti. Salva Danaio.